Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, eccomi di nuovo insieme a voi per iniziare una buona giornata. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Andrea Grignoglio, che è docente di storia della medicina e bioetica all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e al CNR. Professor Grignoglio, buongiorno. Buongiorno. Professor Grignoglio, guardiamo il passato per leggere il presente, partiamo da qui. La prima epidemia rilevante da un punto di vista storico è la peste d'Atene. Siamo nel 430 avanti Cristo, nella guerra del Peloponneso. Abbiamo Atene che è, diciamo, circondata, abbiamo il grande stratega Pericle, arriva la peste sulla città Attica. Le condizioni igienico-sanitarie sono promiscue, sovrappopolata, naturalmente è circondata, e una terribile epidemia, probabilmente di tifo, si è parlato anche di febbre emorragica. È difficile naturalmente ricostruire esattamente quale fu il morbo. Certo è che indebolì gli abitanti, uccise lo stesso grande stratega Pericle, e naturalmente in questo modo venne favorita la vittoria di Sparta. È interessante questo fatto per almeno due motivi. Il primo è che, per dirla molto brevemente, è importante perché ci ricorda che le malattie infettive possono cambiare il corso della storia, perché si può dire che con la morte di Pericle, con la sconfitta di Atene e la vittoria di Sparta, muore la democrazia in Occidente. Dovremmo aspettare poi che si riaffacci nella Roma diversi secoli dopo. E l'altro elemento importante è che già lì, già con Tucidide, già con la prima resoconto diario della peste, noi abbiamo un fatto molto importante, cioè che Tucidide si rende conto che esiste il fenomeno, oggi noi diremmo con retrospettiva storica, dell'immunizzazione, cioè si rende conto che le persone che sono state colpite da questa pestilenza, se sopravvivono, dopo sono coperte a vita, sono immunizzate nei confronti di questa stessa agente infettivo. Professor Grignoglio, e allora, come ad oggi, si parlava di misure restrittive, quindi niente di nuovo sotto il sole, professor Grignoglio? No, niente di nuovo. Ci sono un altro elemento molto storico e rilevante, è comparso su diversi giornali, il professore di liceo milanese che, sì, giustamente, Del Volta, che lettera, è stato bello. Io l'ho letta e immagino che anche voi che mi state ascoltando, ciascuno di noi abbia un po' ripescato il suo insegnante. Tutti noi abbiamo un professore che portiamo nel cuore e probabilmente leggendo quella lettera abbiamo pensato a lui. Beh, questo è anche un effetto, no, del coronavirus, professor Grignoglio. È un effetto del coronavirus, e che, appunto, volendo, poi si potrebbe aprire appunto una riflessione sul fatto che la restrizione, i cordoni sanitari e la quarantena tendenzialmente è un gesto altruistico che unisce la società e il senso di comunità. Detto questo, appunto, in quella lettera emergeva il ritorno alla letteratura per comprendere le pestilenze. È già descritto tutto, perché Manzoni, nella storia appunto della colonia infame, raccontava la peste a Milano del 1630 e la ricerca degli untori. È interessante perché c'è una ricostruzione, potremmo dire molto attuale, sulla differenza tra i fatti e le opinioni. Oggi si parla di misinformazione, o con un termine più generico di fake news, e questo è molto comune durante le pestilenze, perché la popolazione giustamente è più incline ad ascoltare voci incontrollate. È interessante in qualche modo comparare da un punto di vista storico questa descrizione che dà Manzoni, che a noi italiani è molto noto, con un testo meno noto che è appunto di Defoe, il grande scrittore, e che appunto però racconta 30 anni dopo la peste a Londra, nel 1665. Beh, lì si è siamo in Inghilterra e Defoe ne dà una descrizione diversa, perché è più un diario di bordo, si chiama appunto Diario dell'anno della peste, e lì vengono raccontate le misure restrittive, i controlli, c'è meno la riflessione sul ruolo dei giudici, sulla condanna sociale, c'è una descrizione più cruda, direi empirica inglese, della tragedia della peste. In ogni epidemia, professor Grignoglio, c'è l'untore, e soprattutto nelle epidemie, perché quando il nemico è invisibile lo si vede ovunque, si deve cercare di dare un volto al nemico. Anche questo è un meccanismo assolutamente fisiologico, tra virgolette, che è studiato anche da chi si occupa di psicologia sociale. Su questo ho insistito più volte, in effetti oggi, all'inizio degli anni 2000, e oggi si parla sempre con più frequenza del sistema immunitario comportamentale, perché noi ci siamo resi conto che noi siamo stati, quello che era noto è che noi siamo stati selezionati, il nostro corpo, il nostro sistema immunitario, dall'incontro millenario con virus e batteri. Però ci siamo appunto negli ultimi anni resi conto che non solo corpo e sistema immunitario si sono adattati, hanno trovato un accordo con virus e batteri, ma anche la nostra mente, il nostro comportamento. E è noto appunto che nei periodi epidemici le popolazioni tendono ad avere un atteggiamento più chiuso, meno democratico, e talvolta anche con delle spinte xenofobe. Sono stati fatti degli esperimenti molto interessanti in cui a due gruppi diversi, questo esperimento è stato fatto in Canada nel 2004, ebbene a questi due gruppi differenti di canadesi è stato chiesto loro di sostenere economicamente i flussi migratori. Però quando a uno dei due gruppi sono state rilasciate informazioni, sono stati informati su il pericolo di epidemia, oppure sono state anche solo mostrate delle immagini di virus e batteri, è in quel gruppo, e solo in quel gruppo, sono calati drasticamente le intenzioni di supporto economico. Questo poi ha aperto appunto una serie di studi, e però potremmo anche raccontare un fatto che è avvenuto nella civilissima America del 1900, intorno al 1910, quando c'era un'epidemia di poliomielite, di polio, perché anche lì c'è stata una grande caccia all'untore. Sono stati, non era ancora noto il virus responsabile, sono stati accusati i mirtilli, gli immigrati italiani, i gatti. Nel 1916 a New York furono soppressi 60.000 gatti, il latte, persino lo zucchero. Ecco che a un certo punto i gelati sono stati considerati responsabili, perché si vedeva che durante l'estate aumentavano i casi di polio. Questo per dire come la popolazione a un certo punto perde il principio di razionalità sotto pressione, sotto stress, e quindi questo, ricordiamoci quando siamo stati noi ad essere stati accusati, gli immigrati appunto italiani. Questo per dire che l'altro, il diverso, è sempre stato considerato colui che porta, diciamo, le malattie infettive. Professor Grignoglio, se è vero che la storia insegna, noi siamo partiti con lei dall'epidemia di Atene, siamo arrivati ai giorni nostri, che cosa insegna la storia di questa epidemia, e come vorrebbe raccontarla ad un ipotetico lettore del 3020? Li consiglierei, dunque, in primo luogo li direi di leggersi di Primo Levi I sommersi e i salvati, in cui in modo magistrale Primo Levi, che ancor prima, scusate il gioco di parole, di essere un grandissimo scrittore, era un chimico, sì, uno scienziato, e lui descrive come nei campi di sterminio, quindi con un unicum nella storia, diciamo, del Novecento, in cui una popolazione veniva messa sotto una pressione indicibile, disumana, ebbene lui descrive benissimo il meccanismo psicologico per cui una parte del gruppo riteneva che da un giorno all'altro avvenisse la morte, che era imminente, e c'era invece una parte del gruppo che riteneva che da un giorno all'altro sarebbero venissero liberate. Quindi questa polarizzazione, no, di una popolazione sotto stress è molto, molto evidente. E Primo Levi ricordava l'uso critico della ragione, quindi valutare caso per caso, rimanere ancorati al principio di razionalità. L'altra cosa che mi sentirei di ricordare per un futuro, come se, spostandomi da Primo Levi a Calvino, Italo Calvino, no? Quindi Nemos, i ricordi per il prossimo millennio, no? Le sue lezioni americane, lui anche Calvino si rifaceva a un principio di razionalità, ma anche a un principio di coesione sociale. Ecco, direi che bisogna sempre valutare che la quarantena, le misure restrittive, i cordoni sanitari sono un po' come la vaccinazione, sono un gesto altruistico. Naturalmente io non solo mi vaccino, non solo rimango a casa per proteggere me stesso, ma soprattutto lo faccio per non permettere al virus di circolare. Grazie professor Grignoglio, ricordo anche il titolo del suo saggio, direi un saggio illuminante, Chi ha paura dei vaccini. Grazie professore, a presto, buona giornata. Grazie a voi tutti. Bene, per oggi è tutto, ringrazio Valeria Bernardi, regia la parte tecnica, Laura Vanossi come sempre preziosissima in redazione. Noi ci sentiamo a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e subito dopo per la nostra diretta Facebook. Vi aspetto, buonissima giornata, a tra poco.